Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Un'altra conseguenza locale del processo fu un'intesa indomusulmana. Cittadini eminenti si scambiarono esplicite proteste di amicizia alle quali si associava un autentico desiderio di accordo. Aziz, un giorno che si trovava in ospedale, ricevette la visita di un personaggio piuttosto simpatico, Mr. Das. Il magistrato voleva da lui due favori, un rimedio contro il fuoco di Sant'Antonio e una poesia per la nuova rivista mensile del cognato. Lui glieli accordò tutti e due. Mio caro Das, visto che avete fatto ogni sforzo per mandarmi in prigione, perché io dovrei fare lo sforzo di mandare una poesia al dottor Bhattacharya? Naturalmente questo non è che uno scherzo. Farò per lui la più bella poesia che mi riuscirà di scrivere, ma credevo che la vostra rivista fosse per gli indù. Non è per gli indù, ma per gli indiani in generale, disse l'altro timidamente. Non esiste un individuo che sia l'indiano in generale. Non esisteva, ma potrebbe esistere quando avrete scritto la vostra poesia. Siete il nostro eroe. Tutta la città vi segue, senza tener conto della religione. Lo so, ma durerà? Temo di no, rispose Das, che aveva una grande chiarezza mentale. E per questo motivo, se non vi dispiace, non infilate troppe espressioni persiane nella vostra poesia e non metteteci tanti usignoli. Mezzo secondo, disse Aziz mordicchiando la penna. Stava scrivendo una ricetta. Ecco a voi. Non è meglio di una poesia? Fortunato l'uomo che può scrivere le due cose. Siete pieno di complimenti oggi. So che mi serbate rancore perché ho presieduto quel processo, disse Mr. Das, tendendo impulsivamente la mano. Siete gentile e cordiale, ma nei vostri modi scorgo sempre un fondo di ironia. Ma no, no, no, ma che sciocchezze, protestò Aziz. E si strinsero la mano, in un mezzo abbraccio che simboleggiava l'intesa. Tra popoli di paesi lontani c'è sempre la possibilità del romanzesco, ma i vari rami di indiani sanno troppe cose gli uni degli altri per superare facilmente quello che non conoscono. L'approccio è prosaico. Magnifico, disse Aziz, battendo la mano su una solida spalla e pensando, quanto vorrei che non mi ricordassero lo sterco di vacca. Das pensava, certi musulmani sono proprio violenti. Si sorrisero guardinghi, spiando ciascuno il pensiero riposto dell'altro, e Das, il più pronto, disse «Scusate i miei errori, mi rendo conto dei miei limiti. La vita non è facile su questa terra, per quanto ne sappiamo». «Oh, certo! E a proposito della poesia, come avete scoperto che qualche volta scribacchio?» domandò molto compiaciuto e notevolmente commosso, perché la letteratura era sempre stata una consolazione per lui, qualcosa che l'orrore dei fatti non poteva contaminare. Ne parlava spesso il professor Godbole, prima che partisse per Mau. E lui? Come lo sapeva? Anche lui era un poeta. Non vi indovinate a vicenda, voi poeti? Tenu ki noni aankh lag gaye Tenu ki noni aankh lag gaye Tenu ki noni आँख लग गई ओ लगी वाले आना ओ लगी वाले आना ओ लगी वाले के नानी आँख लग गई ओ लगी वाले लगी वाले लगी वाले लगी वाले लगी वाले लगी वाले दुनिया तीनों की नोनी आंख लग गई keno keno ni aankh lag gaye lagi wale o lagi wale anun neend nahi aati lagi wale anu neend nahi aandi ten ganane aankh lag gaye tenu kinoni aankh lag gaye lagwa ಒಲಗಿ ವಾಲಯನು ಒಲಗಿ ವಾಲಯನು ನಿಂದ ನಯಾತಿ ತೇನು ಕಿಣು ನೀ ಲುಸಿಂಗಾತೋ ದಲ್ಲಿಂಬಿತೋ Aziza si mise al lavoro quella sera stessa. Sentirsi la penna tra le dita generò subito degli usignoli. La sua poesia parlava ancora della decadenza dell'Islam e della brevità dell'amore, triste e dolce quanto poté farla, ma non nutrita di esperienza personale, e del tutto priva di interesse per quei bravi indù. Essendone insoddisfatto, corse all'estremo opposto e scrisse una satira, troppo diffamatoria per essere pubblicata. Lui non sapeva esprimere che il pathos o il veleno, quantunque fossero entrambi estranei alla maggior parte della sua vita. Amava la poesia. La scienza era qualcosa di acquisito, che quando nessuno guardava lui metteva da parte come l'abito europeo, e quella sera sognava di scrivere un canto nuovo che fosse applaudito dalle moltitudini e persino cantato nei campi. In che lingua scriverlo? E che cosa doveva dire? Giurò a se stesso di vedere un maggior numero di indiani non musulmani e di non guardarsi più alle spalle. Era l'unica strada proficua. Di quale aiuto possono essere, a questa latitudine e di questi tempi, le glorie di Cordova e di Samarcanda? Sono svanite. E mentre noi le piangiamo, gli inglesi occupano Delhi e ci escludono dall'Africa orientale. Perfino l'Islam, benché vero, getta luci polarizzate sulla strada della libertà. Il canto del futuro deve trascendere la religione. La poesia per il dottor Bhattacharya non fu mai scritta, ma ottenne un risultato. Guidò Aziz verso la vaga e imponente figura di una terra madre. Egli non provava nessun istintivo attaccamento per la terra dove era nato, ma i monti Marabar lo spinsero verso di essa. Socchiudendo gli occhi, cercò di amare l'India. Essa doveva imitare il Giappone. Solo quando fosse diventata una nazione, i suoi figli sarebbero stati trattati con rispetto. Egli diventò più severo e meno accessibile. Gli inglesi, che aveva deriso o ignorato, lo perseguitavano dovunque. Avevano gettato una rete perfino sui suoi sogni. Il mio più grande errore è stato di considerare i nostri governanti come una burla, disse il giorno dopo ad Hamidullah, che rispose con un sospiro: senza dubbio è il modo più saggio di considerarli, ma alla lunga non regge. Prima o poi succede un disastro come il tuo, che svela i loro più riposti pensieri sulla nostra natura. Se Dio scendesse dal cielo nel loro circolo e proclamasse la tua innocenza, non gli crederebbero. No, no, l'unica soluzione è che io me ne vada. E dove? Riprese Hamidullah. I Tarton e i Barton sono tutti uguali e dappertutto. Ma non in uno stato indiano, replicò Aziz. Io credo che i politici debbano comportarsi meglio. Tutto si riduce a questo, tentò di concludere Hamidullah. Ma Aziz insisteva. Voglio andarmene dall'India britannica, anche se dovrò contentarmi di un impiego misero. Là potrei scrivere poesie, credo. Visto come stanno le cose, dobbiamo sforzarci di apprezzare questi strani indù. Ho una mezza idea di cercarmi un posto di medico in uno dei loro stati. Ma il denaro? Il denaro? Non pagheranno mai uno stipendio adeguato quei selvaggi. Ma non sarò mai ricco in nessun posto, protestò Aziz. È contrario alla mia natura. Se fossi stato ragionevole e avessi fatto pagare a Miss Quested... Ho preferito di no. Discutere del passato è inutile, disse lui con asprezza improvvisa. Le ho consentito di tenersi la sua fortuna, che le sarà molto necessaria per comprarsi un marito in Inghilterra. Non ne parlare più. Benissimo, benissimo, ma continuerai a vivere da povero. Per adesso niente vacanze nel Kashmir. Devi continuare la tua professione e raggiungere un posto ben remunerato e non segregarti in uno stato nella giungla a scrivere poesie. Educare i tuoi figli, leggere le ultime pubblicazioni scientifiche, costringere i medici europei a rispettarti, accettare da uomo le conseguenze delle tue azioni. Aziz gli strizzò lentamente l'occhio e disse: Non siamo in tribunale. Ci sono molti modi di essere un uomo. Il mio è di esprimere quello che c'è di più profondo nel mio cuore. A una frase del genere non c'è proprio niente da rispondere, disse Hamidullah commosso. Poi, riprendendosi e sorridendo, hai sentito quella brutta storia che è arrivata a Mohammed Latif? No, quale? Quando Miss Quested era all'istituto, Fielding aveva l'abitudine di andare a trovarla a un'ora piuttosto tarda, dicono i servi. Una novità piacevole per lei, se è vero, disse Aziz facendo una smorfia strana. Ma capisci quello che voglio dire? Il giovanotto tornò a strizzare l'occhio e disse: Su per giù. Ma quello che vuoi dire non mi aiuta a superare le mie difficoltà. Sono deciso a lasciare Chandrapur. Il problema è per dove? Sono deciso a scrivere poesie. Il problema è su che cosa? Tu non mi dai nessun aiuto. Poi, sorprendendo se stesso non meno che Hamidullah, ebbe una crisi di nervi. Ma chi mi dà aiuto? Nessuno mi è amico. Sono tutti traditori, persino i miei figli. Ne ho avuto abbastanza degli amici. Hamidullah riprese: Stavo per proporti di venire con me dietro la tenda delle donne, ma quei traditori dei tuoi figli sono là, quindi non ne avrai voglia. No, scusami, è che da quando sono stato in prigione il mio umore è strano. Abbi pazienza e perdonami. In visita da mia moglie c'è la madre di Nureddin. Questo non cambia niente, credo. Separatamente mi hanno ricevuto tutte e due, disse Aziz. Ma insieme mai finora. Sarà meglio che le prepari al trauma accumulativo della mia faccia. No, no, sorprendiamole senza avvisarle, disse Hamidullah. Tra le nostre signore circolano ancora troppe assurdità. Al tempo del tuo processo pretendevano che avrebbero abbandonato il velo. Davvero, quelle di loro che sanno scrivere avevano fatto un proclama in proposito, ma adesso finisce tutto in chiacchiere. Sai quanto rispetto abbiano per Fielding, ma nessuna di loro l'ha mai visto. Mia moglie si dichiara pronta a farlo, ma quando lui viene trova sempre qualche pretesto. Non si sente bene, si vergogna della stanza, non ha dolci prelibati da offrirgli, ma solo orecchie di elefante. E se le dico che le orecchie di elefante sono i dolci preferiti di Mr. Fielding, ribatte che in questo caso si accorgerà di come sono cattivi i suoi e quindi non può riceverlo per questo. Sono 15 anni, ragazzo mio, che discuto con la mia Begum. 15 anni e non l'ho mai spuntato. E poi i missionari vengono a dirci che le nostre donne sono oppresse. Se vuoi un tema per una poesia, eccotelo. La donna indiana com'è e non come si crede che sia. Aziz non aveva nessun senso della realtà. Le sue convinzioni erano determinate dal succedersi dei suoi stati emotivi, e furono questi a portare alla tragica freddezza tra lui e il suo amico inglese. Avevano vinto, ma non sarebbero stati incoronati. Fielding era fuori per un congresso, e passato qualche giorno senza che il pettegolezzo su Miss Quested fosse da lui smentito, Aziz immaginò che fosse vero. Da un punto di vista morale non aveva niente da ridire sul fatto che i suoi amici si divertissero, e Mr. Fielding, essendo un uomo maturo, non poteva più aspirare al fiorfiore in materia di donne e doveva prendere il suo divertimento dove lo trovava. Ma Aziz era offeso che corteggiasse proprio quella donna che lui considerava ancora sua nemica. E poi? Perché non gliel'aveva detto? Che cos'è l'amicizia senza confidenze? Lui a volte si era spinto a raccontare episodi che sono considerati scandalosi, e l'inglese lo aveva ascoltato, tollerante, ma senza concedere nulla in cambio. Al ritorno di Fielding gli andò incontro alla stazione, accettò di pranzare con lui e poi, apparentemente divertito, si mise ad accusarlo col metodo indiretto. Era scoppiato un clamoroso scandalo europeo, Mr. McBride e Miss Derek. Ora si spiegava il fedele attaccamento di Miss Derek per Chandrapur. Mr. McBride si era fatto sorprendere nella camera della ragazza e sua moglie aveva chiesto il divorzio. Quel signore dall'animo illibato. Ma lui darà la colpa al clima indiano. Siamo sempre noi i responsabili di tutto. Beh, non ho scoperto per voi una notiziola importante, Mr. Fielding? Non molto, disse Fielding, che provava scarso interesse per i peccati altrui. Il viso di Aziz si illuminò. Ah, per questa sera basta. Devo andare subito all'ospedale Minto. Adesso. Il colera si mette male. Cominciamo ad avere anche casi locali, oltre quelli di fuori. In realtà, tutta la vita è un po' triste. Il nuovo chirurgo civile è identico al vecchio, ma ancora non osa esserlo. Ogni cambiamento amministrativo si riduce a questo. Le mie sofferenze non ci hanno portato nessun vantaggio. Ma a proposito, Fielding, fin tanto che me ne ricordo, si chiacchiera anche su di voi, oltre che su McBride. Dicono che anche tra voi e Miss Questy dell'amicizia si è fatta un po' troppo intima. Per parlare francamente, dicono che vi siete macchiati di condotta immorale. C'era da aspettarselo, disse Fielding. Tutta la città ne parla, riprese Aziz. Può danneggiare la vostra reputazione. Sapete, non tutti sono dalla vostra parte. Io ho fatto quello che potevo per soffocare una storia come questa. Ah, no, non preoccupatevi. Miss Questy è partita, finalmente. Una storia simile danneggia quelli che restano nel paese, insisteva Aziz, non quelli che lo lasciano. Figuratevi la mia costernazione, la mia inquietudine. Non ho potuto quasi chiudere occhio. Prima il mio nome, adesso il vostro associato col suo. Fielding lo interruppe. Non usate parole così eccessive. Quali, per esempio? Chiese Aziz. Costernazione e inquietudine. Non ho passato tutta la mia vita in India? Volete che non sappia cosa fa cattiva impressione in questo paese? La sua voce proruppe un po' incollerita. Sì, sì, ma la misura! La misura! Disse Fielding. Voi misurate sempre tutto col metro sbagliato, amico mio. È un peccato che circoli questa voce, ma un peccato così piccolo che possiamo benissimo parlare d'altro. Però vi dispiace per Miss Quested, lo vedo dalla vostra faccia. Nei limiti in cui mi dispiace, io viaggio senza bagagli. Fielding, questa vanteria sul viaggiare senza bagagli sarà la vostra rovina. Vi sta procurando nemici da tutte le parti e mi mette estremamente a disagio. Quali nemici? Poiché Aziz non aveva in mente che se stesso, non seppe rispondere. Sentendosi sciocco, andò ancora più in collera. Vi ho dato elenchi su elenchi della gente di cui non potete fidarvi in questa città. Nella vostra situazione avrei il buon senso di sapere che sono circondato da nemici. Noterete che parlo a bassa voce. Questo perché vedo che il vostro servo è nuovo. Chi mi dice che non sia una spia? Abbassò ulteriormente la voce. Un servo su due è una spia. Look in the eyes of the face of love. Look in her eyes, for there is peace. No, nothing dies within pure light. Only one hour of this pure love to last a life of 30 years. Only इस दुनिया में आए हो तो एक दूजे से avanti, cosa c'è? Domandò Fielding sorridendo. Siete arrabbiato con me per qualche cosa? Ogni attacco diretto metteva Aziz fuori combattimento. Poco dopo disse: Dunque, ragazzaccio, alla sera voi e madamigella Adela avevate l'abitudine di spassarvela? Quei tetri ed elevati colloqui non avevano certo aiutato uno scambio di tenerezze. Fielding fu così allibito che quella storia fosse presa sul serio e così urtato nel sentirsi chiamare ragazzaccio che perse la testa e gridò: «Piccolo sporcaccione, che mi venga un colpo! Bello spasso davvero! Vi pare che fosse possibile in un momento come quello? Oh, vi faccio tutte le mie scuse. La licenziosa immaginazione orientale si è sbrigliata», rispose Aziz, parlando allegramente, ma col cuore spezzato. Molte ore dopo, quello sbaglio lo faceva ancora sanguinare. Vedete, Aziz, le circostanze, e poi la ragazza era ancora fidanzata con Islop. E del resto io non ho mai provato... Ma sì, lo interruppe Aziz. Voi però non avete negato quello che dicevo. E allora ho creduto che fosse vero. Oh Dio, l'Oriente e l'Occidente, una gran fonte di malintesi. Mi dispiace? lasciare il vostro piccolo sporcaccione all'ospedale? Non sarete offeso, spero. No, no, davvero, disse Ziz. Se lo siete, dobbiamo chiarire la cosa più tardi. È già stata chiarita, rispose Aziz con dignità. Credo ciecamente a quello che dite, e non c'è nessun bisogno di tornarci sopra. Ma va chiarito il modo come l'ho detto. Sono stato involontariamente villano. Vi faccio tutte le mie scuse, disse Fielding. No, no, no, la colpa è tutta mia, insisté Aziz. Le complicazioni del genere ostacolavano ancora la loro amicizia. Una pausa al momento sbagliato, un'intonazione fraintesa e tutto un dialogo andava a rovescio. Fielding era rimasto allibito, non scandalizzato. Ma come far capire la differenza? Quando due persone non pensano al sesso nello stesso momento, nascono sempre equivoci, un risentimento reciproco e un certo stupore, perfino quando si tratta di persone della stessa razza. Lui cominciò a ricapitolare i propri sentimenti verso Miss Quested. Aziz tagliò corto. «Ma vi credo, vi credo! Mohammed Latif sarà severamente punito per questa invenzione. Oh, non dateci peso, come a qualunque pettegolezzo. È soltanto una di quelle malignità che vorrebbero scacciare la vita reale. Non badateci e finirà in nulla, come le tombe della povera Mrs. Moore. Venite a pranzo con me. Venite con me», disse Fielding, distogliendo gli occhi. Sandro Lombardi ha letto Passaggio in India di Edward Morgan Forster. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.